Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, tornano le coppe, torna l'appuntamento con il calcio internazionale. Le ultime da Piano Gentile riferiscono della convocazione di Milito e Pandev, che sono almeno in teoria disponibili per la partita di domani sera contro il Werder Bremen, a differenza di Samuel, che invece non è stato nemmeno convocato. Poi Benitez ha iniziato da poco una conferenza stampa in cui ha precisato che con Chivu, dopo dopo la piazzata di sabato sera, tutto è stato sistemato. Parlandoci tra noi in spogliatoio, così ha detto l'allenatore dell'Inter. Bentornato a Fabio Tavelli. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Senti, prendiamola dai campionati, perché stamani Franco Piantanida si è messo a fare riconto e ha ricavato un dato curiosissimo al limite dell'incredibile. Allora, tu senti queste 12 grandi squadre che sono, ha preso le prime 2-3 del ranking dei grandi campionati europei. Allora sono Bayern, Schalke 04 e Werder, Lyon e Auxerre, Inter e Milan, Chelsea, Manchester United e Arsenal, Barcellona e Real Madrid. Tutte queste squadre insieme, cioè le 12 grandi, fanno 108 punti in campionato. Adesso Magonza o Mainz, che dir si voglia, Borussia Dortmund e Hannover in Germania, Saint-Étienne, Rennes e Toulouse in Francia, Lazio, Chievo e Brescia in Italia, Valencia e Villarreal in Spagna, West Bromwich Albion in Inghilterra. Sono sempre 12 squadre, ne fanno 154 contro 108. Io credo che siamo ai confini della fantascienza, ma siamo soprattutto è chiaro che è prematura, ma siamo nell'ambito di una vera e propria rivoluzione interna in ciascuno di questi campionati. Guarda, la rivoluzione è fortissima. Ti aggiungo che finissero oggi i campionati, squadre come il Lione, con lo Schalke 04 e con lo Stoccarda sarebbero retrocesse, che è francamente impensabile. La Roma, scusami, ti interrompo, la Roma e il Palermo farebbero gli spareggi oggi. Sì, tra l'altro la Roma salvandosi all'ultimissimo secondo. Certo. Vero tutto, vero anche che non, cioè di solito queste cose accadono tra la seconda e la terza giornata. Insomma, visto che siamo già alla quinta, hanno un grado di verosimiglianza superiore al passato. Trovo soprattutto che nel campionato francese e in quello tedesco siamo di fronte a un qualcosa di veramente epocale. Mentre in Inghilterra, ad esempio, questa è una rivoluzione che si sente di meno, nonostante la crisi del Liverpool, nonostante il passo falso da parte di tantissime squadre. Se tu pensi che la scorsa settimana il Chelsea ha perso, il Manchester United ha pareggiato, l'Arsenal ha perso e il Liverpool ha pareggiato, insomma, capisci bene che è un qualcosa, certo, che non succede mai ed è impensabile si riproponga spesso. Mentre invece trovo che sia il Saint-Étienne che il Mainz, magari non fino in fondo, ma possano recitare una parte importante almeno fino alla fine del girone d'andata. Insomma, abbiamo scomodato il fenomeno Chievo del 2001-2002, sì. C'è anche stato il fenomeno Hoffenheim, che poi tra l'altro si è confermato a livelli anche superiori rispetto al Chievo. Devo dire che è una bella boccata d'aria nuova. Certo. Parliamo un attimo, poi magari arriviamo al Magonza, no? O al Mainz, che insomma le due grandi novità sono Mainz, anche perché è punteggio pieno, e Saint-Étienne. Allora, il Saint-Étienne è una grande suggestione, perché era la squadra con cui Platini vinse una serie di campionati prima di venire in Italia. Le Verre, i Verdi, fecero una finale Coppa Campioni persa, tra l'altro persa in maniera giusta fino a un certo punto con il Bayern di Beckenbauer e di quella gente lì e di Gerd Müller. 30 anni fa era stata l'ultima volta in cui Saint-Étienne era in testa della classifica, e c'erano appunto Platini, c'era Johnny Rep, reduce dall'Ajax, e quella fu l'ultima vittoria dei suoi 10 campionati francesi. Un'altra curiosità che Franco mi ha segnalato prima è questa, che Payet, l'attaccante del Saint-Étienne, aveva segnato nei primi 5 anni di carriera in campionato, in Ligue 1, aveva segnato 11 gol in 129 partite, che insomma, diciamo che è uno score abbastanza, non un cecchino. Ecco, ne ha segnati 7 su 7 in queste, in queste prime giornate. Sì, è proprio la dimostrazione che va tutto bene. Ma io voglio anche insistere sull'anagrafica degli allenatori, perché sia l'allenatore del Saint-Étienne che l'allenatore del Mainz sono due giovani, perché hanno tra i 37 e i 43 anni, ma soprattutto sono giovani di pedigree, cioè non sono allenatori che hanno magari avuto 5-6 squadre prima di allenare queste. In entrambi i casi stiamo parlando di allenatori che sono usciti dai settori giovanili e sono riusciti anche, quello del Mainz, ha firmato il primo contratto professionistico l'anno scorso e ha ottenuto la promozione e adesso ha fatto l'unplane nelle prime 7 giornate. Insomma, parliamo di situazioni anche tattiche, perché il Mainz gioca 4-2-3-1 abbastanza spregiudicato e anche discretamente spettacolare, e soprattutto è una squadra che è stata capace di rimontare e vincere contro il Bayern di Monaco all'Allianz Arena, di andare sotto 3-0 contro il Wolfsburg il giorno dell'esordio di Diego, il giorno in cui Diego ha pure segnato, e di vincere 4-3 in trasferta. Quindi diciamo che è una squadra che ha anche qualità psicologiche oltre che tecnico-tattiche. E lo stesso Saint-Étienne, andando a vincere a Lione, da un lato la scorsa settimana ha certificato la sua grandezza, che è momentanea, però se vedi, tu hai detto bene prima per quanto riguarda le squadre, cioè se vedi la classifica francese con Saint-Étienne, Rennes, Toulouse e anche il Caen mi sembra sia quarto, cioè, capisci bene che in Francia sta succedendo qualcosa di pazzesco, e soprattutto c'è la definitiva il definitivo affossamento, almeno per questo periodo, del Lione, che insomma sta vivendo la sua peggior stagione negli ultimi 10 anni, ed è una squadra che sta seriamente pensando di cacciare l'allenatore Claude Puel. Sì, e secondo la Gazzetta di stamane starebbe anche pensando, cacciando Puel, di provarci con Lippi. Questa sarebbe l'intenzione del presidente Ola, che non l'ha smentita. L'ha smentita il club, questa ipotesi di un contatto che ci sarebbe già stato, ma non l'ha smentita il presidente, che ha detto invece beh, in qualche modo bisogna pure guardarsi intorno. Nel frattempo il tuo canale dedicato, cioè Sky Sport 24, mentre tu conversi amabilmente per fortuna con noi, ci informa che Cassetti e Pizzarro hanno superato stamattina il provino, il test, e quindi stasera potrebbero essere in campo da subito contro il Clujì. Ci arriviamo tra poco, subito dopo l'intervallo per strade e autostrade. Torniamo allora in compagnia di Fabio Tavelli e ci spostiamo adesso sul versante Coppa, poi eventuali come dire, residui di campionato salteranno fuori indirettamente da questa vigilia. Nella seconda parte del programma parleremo più in dettaglio di Ajax Milan e di Roma Clujì. Stiamo sul resto del programma di stasera, per esempio su Chelsea Marsiglia direi, e su Auxerre Real Madrid, che mi sembrano un po' le partite clou. Sì, tra l'altro con questa verifica interessante sia per il Chelsea che per il Marsiglia, nel senso che il Marsiglia ha perso la prima gara, il Chelsea l'ha vinta, ma soprattutto il Chelsea in una settimana è uscito dalla Carling Cup, che è la minore delle coppe nazionali inglesi, ma comunque non viene mai snobbata, anche se molte squadre mettono in campo maggiormente i giocatori che non utilizzano in campionato o in Champions League, ma mai con un atteggiamento, come dire, di sufficienza, perché poi la Carling Cup serve sempre agli allenatori alzarla alla fine della stagione, o comunque farla bene per poter dire appunto di aver fatto comunque qualcosa di buono, e tra l'altro è il primo trofeo che si assegna, e quindi è una coppa alla quale molti allenatori tengono particolarmente. E nella stessa settimana è arrivata anche la prima sconfitta. Io non credo che possa aver avuto dei contraccolpi psicologici forti nei confronti del Chelsea e nei confronti di Ancelotti soprattutto, però un minimo di campanello d'allarme lo porta, oltretutto contro una squadra che in Inghilterra ogni tanto fa bene. Ricordo una vittoria del Marsiglia a Liverpool con gol di Valbuena, e che costrinse poi Liverpool a un lungo inseguimento durante tutta la fase a gironi, e soprattutto è allenata da Deschamps, che a Stamford Bridge ha giocato, seppure nella fase terminale della sua carriera. È vero. Iniziò nel 99, tra l'altro Deschamps fu anche allenato per 5-6 mesi da Carlo Ancelotti quando Ancelotti prese il posto di Marcello Lippi sulla panchina della Juventus durante una stagione non positiva per la Juventus, e che poi segnò invece l'approdo appunto di Ancelotti nel primo grande club della sua carriera di allenatore. Senti, a proposito dei discorsi di prima, due o tre ascoltatori eccepiscono, per esempio Jacopo da Vicenza scrive che i conti si fanno sempre soltanto alla fine. Certo, però allora aspettiamo maggio, fare i programmi da maggio in poi, aspettiamo maggio, esatto, leggiamo la classifica e siamo a posto, mentre invece esatto. Mi pare che vadano cavalcati e come questi fenomeni alternativi, no? Se non altro appunto consentono di uscire dalla solita routine. A proposito di routine, mi pare che il nostro comune carissimo amico Mourinho stia ripristinando in Spagna quello che già lo aveva reso celebre in Inghilterra e che poi aveva esportato da noi, no? Dal punto di vista della turbolenza ambientale. Guarda, io dichiarazioni e sapevo che... Proviamo a richiamarti, Fabio, proviamo a richiamarti al volo perché c'era un problema di linea e forse anche di interferenza. Nel frattempo potremmo mandare un contributo. No, è già ricollegato. No, non ancora. Potremmo mandare un contributo della conferenza stampa di vigilia di ieri di Auxerre Real Madrid, perché comincia a esserci qualche tensione tra la stampa spagnola, in particolare quella madrilena, e Mourinho. E ad un certo punto, quando gli è stato chiesto come mai non facesse giocare, non avesse annunciato in formazione o comunque perlomeno in rosa, non avesse valorizzato di più quello che sembra essere un nuovo idolo nascente dei madrileni, un giovane che si chiama Pedro León, Mourinho è, insomma, diciamo che si è esibito un po' alla sua maniera. Sentiamo. Se il presidente Florentino mi viene a preguntare a me perché Pedro León non ha sido convocato, io tengo che risponderle, però non mi ha preguntato. Y vosotros, hablando de Pedro León, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No, tiene que trabajar para jugar. Yo te juro, yo si soy periodista deportivo y vengo a una previa de Champions, mi primera pregunta al entrenador es, ¿quién juega mañana? Vosotros no me hacéis esa pregunta. Perfecto, perfecto. Quizá me llama Jean Fernández y me pregunta, Mourinho, ¿quién juega mañana? Porque vosotros no estáis interesados en saber. Quieres saber de Pedro León? È problema tuo. Che se viene il presidente Perez, così ha cominciato Mourinho, a chiedermi come mai non gioca Pedro León, allora gli posso anche rispondere. Se me lo chiedete voi, non ci penso nemmeno. Questa era a grandi linee la traduzione del passo principale. Dopodiché ha un po' ironizzato sul conto di questo ragazzo, ha segnalato che non gli sembra sia né Zidane né Maradona, e ha, insomma, in altre parole, ha rivendicato, ma sempre in questo modo pittoresco e vagamente provocatorio, il diritto alle scelte. Questo sì è sacrosanto. Però, Fabio, non mi sembra l'unica performance dialettica di questi ultimi giorni di Mourinho. No, anzi, quando ha parlato l'altro giorno della debolezza delle squadre che affronta il Barcellona nel girone di Champions League, io sinceramente trovo che quando mi viene in mente un paragone che può anche essere strano, ma insomma può rendere l'idea, cioè quando ci sono questi uomini politici che magari delirando un po', facendo un po' di battute, vengono poi derubricati a stava parlando per il suo popolo. Ecco, io trovo che Mourinho quando fa così sta parlando per il suo popolo, cioè sta parlando per quelli che lo adorano, sta parlando per quelli che lo considerano Dio in terra, e quindi si rivolge a loro con questo modo per certi versi strano, con sempre un sottofondo abbastanza vago ma esistente di verità, perché comunque stiamo parlando di una persona che delira, ma stiamo parlando di una persona che è lucidissima e che lucidamente lancia i suoi strali. Quando viene a dire che il Barcellona, che non si può pretendere che il Real Madrid giochi bene perché mica è stato sorteggiato in un girone di scarsi, trovo che dica due o tre cose false. Intanto non ricorda il fatto che lui comunque nella fase a gironi ha avuto l'onore di duellare con squadre come la Nortosis, come Rubin Kazan, come la Dinamo Kiev, certo, non incantando mai alla guida dell'Inter. Non mi pare sia una colpa essere estratti o sorteggiati in un girone non particolarmente forte. Non capisco che paura abbia dell'Ajax di oggi, non sta parlando certamente dell'Ajax di Johan Cruyff, e quindi può anche evitare di ricordare quante coppe ha vinto l'Ajax, a meno che non voglia ogni volta che giochi contro la Pro Vercelli ricordare gli scudetti della Pro Vercelli. Non mi pare che sia successo, e cioè in ultima analisi che cominciasse a far giocare bene la sua squadra, perché cominciano ad averne anche un po' piene le tasche a Madrid di vedere tutto questo patrimonio che fa 0-0 con Levante o fa 1-0 nelle altre partite o comunque non incanta mai. Penso che stia gettando come al solito un po' di fumo negli occhi, che non sia ancora riuscito a dare alla sua squadra un gioco decente, probabilmente ci riuscirà, gli auguro che ci riesca e ci faccia vedere un grande Real Madrid, però insomma diciamo che ormai è un gioco che abbiamo già visto parecchie volte, e quindi lo derubrichiamo a sta parlando al suo popolo. Sta parlando al suo popolo, e in fondo non ha nemmeno detto sono porci questi del Barcellona, no? È la B che gli manca. A ironizzare, esatto, su qualche altro aspetto. Io credo che il panorama sia abbastanza esauriente a questo punto, fermo restando che delle italiane Parliamo dopo. Forse un accenno al Bayern ancora prima di chiudere, visto che insomma, giocare in Svizzera non è mai particolarmente piacevole, secondo me, in questi primi turni, quando, come giustamente ricordano alcuni ascoltatori, si viene anche da un anno post-mondiale e quindi i grandi club comunque non possono non scontare i contraccolpi, no? Di forma, di condizione, di poche vacanze, eccetera, eccetera, che i loro campioni accusano. Beh, il Bayern in questo ha una doppia negatività, nel senso che ha fatto una lunghissima strada in Champions League arrivando fino a Madrid e molti suoi giocatori hanno fatto una strada molto lunga anche in Sudafrica. Se ci aggiungi gli infortuni dei due grandi giocatori che il Bayern ha, grandi a parte ovviamente Thomas Müller, che sono Ribéry e Arjen Robben, insomma, capisci e capiamo abbastanza facilmente come il Bayern in questa fase debba, secondo me, limitare i danni, cercare di stare comunque vicino alle vette della classifica e poi invece da primavera mettere le marce che conosciamo per tornare a vincere. Trovo che l'allungamento del contratto di Van Gaal sia in questo senso molto significativo, un segnale di grande attenzione. Non tutte le grandi società si comportano in questo modo, cioè di allungare il contratto a un allenatore dopo una sconfitta. Mi è sembrata una ottima mossa. Completamente d'accordo, grazie a Fabio Tavelli. Allora, a presto, grazie a voi. Chiudiamo a presto, potrebbe essere giovedì per un bilancio di questa due giorni. È divertente la battuta del presidente del consiglio bulgaro, che si chiama Borisov, che ha saputo che sarà Lothar Matthäus il nuovo CT del suo paese. Ha detto, il suo commento è stato: non so cosa potrà fare in Bulgaria, al massimo potrà sposarsi un'altra volta, perché Matthäus credo abbia già collezionato un numero di mogli, in effetti, che ricorda quello di Liz Taylor, ovviamente al contrario, per via che quelli erano mariti, ma insomma è abbastanza in su in classifica da questo punto di vista. Nella seconda parte del programma ci sarà spazio, come sempre, per i vostri interventi, ma ascolteremo le voci della vigilia per quanto riguarda in particolare il Milan e la Roma, cioè le due squadre impegnate stasera, e parleremo magari un po' più in dettaglio di quel grave episodio accaduto domenica ad Alessandria, con una incredibile aggressione al portiere del Gubbio, la cui prognosi è vicina al mese. Intervallo, aggiornamento dei mercati. Il giudice sportivo sulle partite di domenica scorsa ha squalificato per un turno Giacomazzi del Lecce, Perrotto della Roma e Sculli del Genoa. Mazzarri, che era stato espulso durante Cesena a Napoli, è stato soltanto ammonito con diffida. È morto all'ospedale di Bolzano Erwin Stricker, un nome che non so quanto dirà ai più giovani, ma che a chi ha visto nascere e poi ha seguito la celeberrima valanga azzurra dello sci, qualcosa dice come, perché Stricker è stato uno di quegli uomini di punta, anche se una lunghissima serie di infortuni poi ne aveva bruciata verde la carriera. Era un discesito, chiamavano il cavallo pazzo dello sci, era estroso, era estemporaneo, era coraggiosissimo, era un bel soggetto che poi ha avuto anche una discreta fortuna nella vita imprenditoriale, sempre legata a tutto quanto attineva alla neve. Prima di dare la linea a due ascoltatori che sono già collegati, sentirei almeno due frammenti di vigilia. Il primo è quello di Allegri a proposito di questa visita a casa Ajax. Una partita importante, oltre che difficile, giochiamo contro una squadra molto valida tecnicamente, per noi però la partita è molto importante, perché un risultato positivo significherebbe mettere una grossa ipoteca sul passaggio del turno. No, non ho ancora deciso, però sicuramente sto pensando che ci può essere la possibilità di poter cambiare qualcosa. È normale che senza Ronaldinho, che finora ha giocato molto, può darsi che cambieremo qualcosa. Ajax è un'ottima squadra, è una squadra giovane, con ottimi giocatori di grandi qualità. In casa sicuramente giocano un calcio diverso da quello che propongono in trasferta e credo che per noi sarà una partita molto difficile. Ranieri non ha alternative dopo la sconfitta di Monaco nella prima giornata o serata, che dir si voglia. La Roma non può far altro che provare a battere questi rumeni, che già una volta hanno fatto un brutto scherzo alla Roma all'Olimpico. Sentiamo. Decisiva no, ma molto importante, molto delicata. Dobbiamo batterli per per andare a 3 punti e poi continuare su questa strada, con molta serenità, con molta determinazione, con molta calma, perché non sarà una partita facile, perché loro verranno, si chiuderanno dietro, ripartiranno con giocatori veloci davanti, per cui dobbiamo essere molto, molto rapidi nella circolazione della palla e molto attenti a sfruttare ogni indecisione loro. Sentiamo Davide che è chiamato dalla provincia di Pavia, buongiorno. Sì, dica. Pronto? Pronto. Buongiorno dottor Garanzini, la chiamavo in mezzo alla tessera del tifoso. Uh-huh. Una brevissima premessa, io l'ho fatta 4 anni fa con il centro di coordinamento degli interclub quando non era obbligatoria e l'avevo vissuta come un atto di fedeltà alla squadra, mi piaceva farla proprio per un senso di appartenenza, per lo spirito per cui era nata. Adesso ci troviamo a essere obbligati a farla, ce la fanno passare come una cosa, mentre tutti sanno che è un grosso favore fatto al sistema bancario italiano. Ma premesso questo, racconto cosa è successo mercoledì sera a San Siro, tanto per capire come funziona questa tessera. Terzo anello rosso, tifosi del Bari seduti tranquillamente al terzo anello rosso senza tessera del tifoso nei posti delle persone che avevano fatto il loro abbonamento e avevano il diritto di stare in quel posto perché muniti di tessera del tifoso e di abbonamento pagato anticipatamente, non si sono potuti sedere, sono stati fatti spostare dal servizio d'ordine dello stadio perché lì c'erano queste persone che non avevano nessun diritto di starci, ma per ragioni di ordine pubblico non si potevano spostare. Erano stati... A questo punto mi domando, il ministro che ci sbandiera questa cosa come un atto di assoluta sicurezza, come fa a fare? Io vorrei sapere come faccio a far valere il mio diritto di cittadino onesto che rispetta la legge e ha un contratto pagato con la società per un posto allo stadio, come faccio a far valere il mio diritto certo. Ad essere sicuro a portare mia figlia allo stadio sapendo che succedono regolarmente queste cose che poi sono successe, ho letto sulla stampa, in anche altri stadi ne sono successe, certo. Anche di peggio, è una per buonissima fortuna, è successo solo lo spostamento del posto. È una buonissima domanda la sua Davide, e ho l'impressione che sia corretto anche l'indirizzo del destinatario, eh? Mettiamola così. Alessandro, provincia di Firenze, buongiorno. Salve, buonasera. Io ho chiamato per 2 brevi cose che vanno un po' al di là dell'attualità. Io sono un simpatizzante dell'Inter e ascoltavo poco fa le dichiarazioni che Mourinho ha fatto in Spagna e sono ancora più contento che non sia più all'Inter, non tanto per le cose tecniche che ha fatto, che sono state egregie, ma perché aveva un atteggiamento che secondo me contribuiva tantissimo a far salire la tensione in tutto il campionato, e quest'anno mi sembra molto più calmo e più tranquillo. Ci sono polemiche, ma non del genere che c'erano lo scorso anno e 2 anni fa, secondo me in buona parte grazie a José Mourinho. Allora, la seconda, prego. No, dico appunto alla dipartita di Mourinho, ma infatti... Io sono estremamente, anche se da un punto di vista, se non tecnico, comunque di risultati non si può discutere, però certo. C'era un clima che veramente... Ma infatti adesso sta cominciando, una delle sue specialità indubbiamente è l'avvelenamento dei pozzi, sta cominciando a farlo, anzi ha già cominciato a farlo in Spagna. Guardi, c'è un'agenzia appena uscita che da Madrid che riproduce una parte dell'articolo di fondo di stamattina di AS, che è il quotidiano sportivo spagnolo più vicino al Real, che scrive: da lui, cioè da Mourinho, ci aspettiamo titoli, ma iniziamo a pensare che ci porterà anche nuovi nemici quando c'è già un antimadridismo galoppante. E aggiunge poi il club, cioè il Real, si è messo nelle mani di quest'uomo che si fa vedere tanto, che fa parlare tanto di sé, ma che finisce col fare ombra allo stesso Real Madrid. Sentiamo ancora un altro fiorentino, poi torniamo alle voci in arrivo dai campi e dagli stadi di stasera e di domani sera. Federico, un fiorentino, buongiorno. Buonasera dottor Garanzini, la chiamo per una cosa che mi sta molto a cuore e che trovo un elemento di civiltà. Oggi è giornata di giudice sportivo e io non capisco come non si possa utilizzare la prova televisiva per punire i simulatori che sono evidentissimi molto spesso. E siccome l'arbitro non scrive niente di tutto questo sul referto, io credo che la prova televisiva sia la cosa più semplice per punire un atteggiamento antisportivo. Io sono un dirigente sportivo di una squadra di basket e trovo che l'etica sportiva sia da salvaguardare in tutte le forme possibili e immaginabili. Sono d'accordo con lei. In effetti invece non c'è nessun comunicato di oggi da parte del giudice sportivo di uso della prova TV, né per lei ha parlato di simulazioni, adesso non so bene a chi o a che cosa si riferisca, ma neanche per gravi comportamenti antietici, antieducazione di base, direi, che per esempio domenica si sono notati, perché già si era visto in TV, lo segnala una mail ricevuta da un ascoltatore. Domenica in Bari Brescia c'è stato un giocatore del Brescia, che per non far nomi si chiama Bega, che nei confronti di un giocatore del Bari, che sempre per non far nomi si chiama Ghezzal e ha il bruttissimo difetto di essere un nordafricano, gli si rivolge chiarissimamente in primo piano con un simpatico epiteto, insomma lo chiama marocchino di merda, tanto per capirci. Lo so che non è un linguaggio particolarmente radiofonico, ma è diventato purtroppo il linguaggio di tutti i giorni con cui siamo costretti a convivere, soprattutto dalle parti della cosiddetta o pretesa Padania, e questo sinceramente non è un non è il massimo, dato che nelle ricorrenti ondate di severità, no, che vanno e vengono in questo paese, ogni tanto c'è il momento in cui c'è il pugno di ferro contro chi bestemmia, poi c'è il pugno di ferro contro chi insulta gli avversari, poi c'è a maggior ragione quando questi insulti si colorano di razzismo, e invece poi c'è il momento dell'impunità assoluta, e questo mi sembra che sia quel momento, perché le ripeto che questa inquadratura da prova televisiva era nettissima e non si prestava a nessun genere di equivoco. Torniamo invece, visto che abbiamo parlato di razzismo, torniamo da uno che il razzismo l'ha sempre combattuto, avendolo anche vissuto sulla propria pelle. Si chiama Seedorf, è uno dei più grandi giocatori che siano venuti nelle ultime stagioni in Italia, e ci presenta questo suo ritorno a casa, visto che lui nell'Ajax era cresciuto. Non lo sai che nomi proprio degli avversari, li rispettiamo, però no, Ajax, ho visto la partita contro il Madrid e posso solo dire che non sono questi, cioè loro sono più forti di quelli che hanno fatto vedere contro il Madrid, allora, anche perché poi mancava Suarez, che già solo lui fa una bella differenza. Allora dobbiamo stare assolutamente concentrati e sul pezzo, con tanto rispetto, perché è una squadra con tanto entusiasmo in questo momento. È divertente ricevere molte mail, molte lettere, molti messaggi, ed è interessante, è costruttivo. Poi in qualche caso è anche come dire un po' spiazzante. Ieri ne arriva una firma Davide Viganò che suona così: lo scorso anno lo sport preferito era la vivisezione del labiale di Mourinho. Ora, se qualcuno si prendesse la briga di leggere bene il labiale di Kivu dice esattamente: o li fate togliere o io me ne vado, e si riferisce agli striscioni apparsi in curva romanista durante la partita. Non diceva certamente a Benitez, non era certamente la lamentela tattica, semmai quella è venuta negli spogliatoi. Eppure le TV e voi giornali e voi cose eccetera, ce l'avete con l'Inter, un attacco all'Inter eccetera eccetera. Ora a Davide Viganò basterà forse ricordare, oltre al fatto che insomma per leggere i labiali un minimo di impegno bisogna mettercelo volendo, ma forse è il caso di ricordare chi ha appena finito di scusarsi, no, per l'ennesima volta nei confronti di Benitez e dei compagni con i quali ce l'aveva, e cioè con Eto'o. E nello stesso tempo Benitez ha appena detto di aver accettato le scuse e di aver chiuso così questa inedita piazzata che Kivu si è concesso domenica all'Olimpico, tra lo stupore generale e il perdonismo del tifoso integrale Davide Viganò. Vabbè, che almeno ha avuto il suo quarto d'ora di notorietà. Il ripasso di storia, affidato come sempre a Nicola Filippone. Che cosa è accaduto negli anni il giorno 28 di settembre? Sembra ieri. 28 settembre 1974. Dopo la delusione dei mondiali tedeschi, la nazionale italiana riparte dall'esperienza di Fulvio Bernardini. L'amichevole di esordio però non è incoraggiante. A Zagabria la Jugoslavia domina per larghi tratti la nuova Italia e solo un'ottima prestazione di Zoff evita che la sconfitta sia più pesante dell'1-0 finale. Finita l'epoca di Riva, Rivera e Mazzola, il tecnico romano si affida a Zoff, Facchetti e Boninsegna e inizia a sperimentare, facendo esordire 6 giocatori: Roggi e Caso della Fiorentina, il laziale Re Cecconi, il romanista Francesco Rocca, il milanista Zecchini e lo juventino Damiani. Per nessuno di questi, però, l'avventura in nazionale durerà più di una manciata di gare. Nicola Filippone, per stravincere, ha segnalato un altro paio di eventi del 28 settembre. Nel 72 l'Ajax di Cruyff, la grande Ajax, conquistò la sua Coppa Intercontinentale battendo 3-0 l'Independiente con 2 gol di Rep e 1 di Neskens. Molti, ma molti anni prima, il 28 settembre del 1884, si giocò la prima partita ad Anfield Road, cioè la futura tana del Liverpool. Ma la cosa curiosa è che in quei primi anni ci giocò l'Everton, perché il Liverpool fu fondato soltanto nel 92, quindi 8 anni dopo. Quindi Anfield Road, chissà se lo sanno tutti i tifosi del Liverpool, che la loro tana celeberrima è stata, come dire, preventivamente profanata per 8 anni dai cugini. Ci sono altri ascoltatori collegati, però tra poco vorrei dedicare un po' di spazio davvero al racconto del portiere del Gubbio, la Manna, e della sua famiglia. Una ricostruzione apparsa su tutti i giornali, in particolare sulla Gazzetta dello Sport, che ha dedicato un ampio servizio e lunghe conversazioni con questa famiglia. Pensate, allora chiedo un attimo di pazienza a Vittorio, che è già collegato da Roma. Pensate che padre e madre di questo portierino 21enne del Gubbio erano andati ad Alessandria perché il papà compiva 50 anni domenica, e quindi insomma era un'occasione di far festa. Padre e madre aspettano fuori allo stadio il figlio, che ha giocato e perso la partita con l'Alessandria 2-0, quindi, ma in maniera assolutamente indolore, nel senso che nulla era accaduto durante la partita. E poi il racconto: sono le 17:15 circa, io, Eugenio e mia moglie, ed è il padre del portiere che racconta, ci camminiamo verso l'auto a 100 metri dallo stadio. Siamo passati davanti al bar, fuori c'erano 10-15 persone che bevevano. Quando hanno visto mio figlio con la tuta del Gubbio, hanno iniziato a sfotterlo: hai preso 2 gol, prendili e portali a casa. Non mi ha fatto finta di nulla, perché mi pare che fin lì ci possa stare. Ma quando una persona ha insultato pesantemente mia moglie, ho risposto: che cosa volete, avete vinto, non siete ancora contenti? A quel punto è partito il pugno che ha colpito Eugenio, è scoppiato il parapiglia, sono stati colpiti anche i genitori, la madre in particolare, e le indagini sono in corso, per sperando che sia possibile identificare tutti questi galantuomini e possibilmente poi condannarli come merita. Io devo dire che la definizione del ministro Maroni, non era una partita a rischio, però ci sono tanti pirla in libertà ed è difficile intervenire preventivamente, insomma, la condivido a metà. È difficile intervenire preventivamente, siamo d'accordissimo. Che siano 4 pirla lo trovo, come sempre, un tantinello riduttivo. Vittorio ha chiamato da Roma, buongiorno. Dottore, buon pomeriggio. Io desideravo porle una domanda e, se possibile, avere un suo parere. In relazione alle dichiarazioni che sono state fatte la settimana scorsa da Ranieri a proposito di presunte trame relative alla panchina e all'eventualità di un arrivo di Ligbi a Roma. Ho letto una serie di articoli sia sul Corriere dello Sport che sulla Gazzetta, e mi sono parsi abbastanza eticamente scorretti tutti questi presunti trame avvenute già quando lui era alla Juve e successivamente, adesso, se così fosse, alla Roma. Ma è possibile che esista nel mondo del calcio, soprattutto a certi livelli, un modo di dover andare a cercare di delegittimare o a cercare di mettere il bastone fra le ruote a persone come Ranieri, che io reputo sempre molto educate, molto serie, e che tra l'altro hanno fatto bene in tutte le squadre dove lui ha allenato? Viceversa, non reputo Lippi un allenatore tale da potersi permettere di avere questo tipo di arroganze. E se questo non fa male spesso al mondo del calcio e questi tipi di atteggiamenti non creano poi dei presupposti anche per, come lei poco fa stava dicendo, i di Pirla che talvolta entrano in azione. No, adesso no, Vittorio, io non andrei oltre, no, non mischierei le cose, no. Non credo che una eventuale, perché stiamo parlando di molto eventuale, autocandidatura a una panchina, oppure che una cordata alternativa, visto che la Roma in questo momento è in vendita, è ufficialmente in vendita, che intenda presentarsi questa eventuale cordata con un eventuale ex CT all'occhiello, forse non il massimo in questo momento, no? dopo la fine del mondiale, ma insomma queste sono altre valutazioni. Da lì a una a conseguenze violente, no, io questo mi sentirei di escluderlo. Quello attiene il campo del, insomma, di com'è il mondo del calcio, e non mi pare un episodio sinceramente poi così scandaloso. Fa parte, è il calcio bellezza, si potrebbe dire, fa parte delle regole non scritte, fa parte delle abitudini, fa parte magari dell'ingiustizia di non che un professionista serio e per bene non venga lasciato lavorare fino in fondo. Però è anche vero che nel calcio conta solo i risultati della Roma, almeno fino a 3 giorni fa non erano sinceramente molto, molto incoraggianti, e lo stesso Ranieri qualche prova così di essere un pochino sotto pressione l'aveva data. Non drammatizzerei, ecco, da questo punto di vista. Ricorderei piuttosto che, a proposito di date, il 28 settembre, che Nicola Filippone ci ha così riccamente illustrato, è anche la data in cui sono nate sia Alice che Vittoria, e cioè entrambe le figlie del nostro amico, del nostro e vostro amico Fabio Tavelli. Maurizio ha chiamato da Venezia, buongiorno. Buongiorno dottor Granzini. Dica. Io telefonavo per un quesito. Guardavo domenica Chievo-Lazio. Sì. C'è stato quel tiro in attacco di un giocatore del Chievo che ha colpito Rocchi sugli Zebedei. Sì. Nel momento che la palla è rimbalzata, è andata addosso è andata a un giocatore da Lazio, è andato in contropiede. Sì. E nessuno si è lamentato. Il momento quando la palla è tornata al Chievo, tutti i giocatori della Lazio là a chiedere che buttassero fuori la palla, loro non l'hanno fatto, l'arbitro ha interrotto il gioco e si sono messi quasi le mani addosso. Furbata classica e di bassa lega, e stavolta non c'entra la lega a cui mi riferivo prima. Questa è di bassa lega davvero. Maurizio, grazie, non lei, non la furbata dei giocatori laziali domenica, l'avevo notata anch'io. Grazie a tutti, grazie a Fabio Cantadori in regia, a Franco Piantanida in redazione. A domani. Tempo di sport.